con cui spesso cambia le cose. Mi dà felicità, anche se poi spesso la temo. Qual è l'approccio giusto? Non lo so. Mi aggrappo un tre elettrico che non si ferma mai. La voglia di non essere ciò che non sono, apologia di un istante che non ritorna mai. Sai, mio cuore è un sogno che non si dissolva, come un'onda tiepida e blu, consapevole della sua breve storia. Sai, mio cuore è un sogno che non si dissolva, come un'onda consapevole della sua breve gloria. La complicità con cui spesso accenni un sorriso. Lo sai, non basta mai, anche se poi spesso ne abuso. Qual è l'approccio giusto? Non lo so. Mi aggrappo un treno elettrico che non si ferma mai. La voglia di non essere ciò che non sono, apologia di un istante che non si ferma mai. Con un sogno che non si dissolva, come un'onda tiepida e blu, consapevole della sua breve storia. Sai, mio cuore è un sogno che non si dissolva, come un'onda consapevole della sua breve gloria. Come un'onda consapevole della sua breve gloria.